Spara Yuri, 1983, Ortodossia, l'etichetta la Attack Punk. Felicitazioni, dice il testo di questa traccia, felicitazioni alla grande mostra celebrativa dei 40 anni della fondazione di CCCP Fedeli alla Linea, che si svolge a Reggio Emilia, e abbiamo proprio al telefono il direttore Davide Zanichelli della fondazione Palazzo Magnani, la fondazione che ha prodotto la mostra, che è in svolgimento ai chiostri di San Pietro, sempre a Reggio Emilia. Buonasera. Buonasera a tutti. Bentrovati, sono molto contento di sentirla bene e di averla qui all'ascolto. E, intanto la mostra è iniziata una settimana fa, volevo sapere come va, immagino sarà già venuta un sacco di gente. Sì, abbiamo già venduto oltre 3.000 biglietti e naturalmente siamo anche in attesa del pubblico di questo weekend, che sarà un weekend particolarmente speciale perché ci saranno le due serate al Teatro Valli. È vero. Aspettiamo un grande pubblico. Il Gran Galà Panchettone, che immagino sia sold out da parecchio tempo e a cui tra l'altro si è anche aggiunta una seconda data, sì. Non in programma dall'inizio, che si svolgerà domenica. Immagino non sia impossibile trovare biglietti, entrare. È impossibile da qualche minuto dopo l'apertura del botteghino online. Infatti. Senta, la prima domanda classicissima: come è nata l'idea di produrre e allestire questa mostra sui CCCP? Allora, la proposta è venuta dai CCCP nell'inverno dell'anno scorso. I CCCP hanno contattato il comune di Reggio Emilia, che è uno dei nostri soci, il nostro socio di riferimento. Noi, la fondazione, è una fondazione di partecipazione, ci occupiamo di organizzare mostre e iniziative culturali a Reggio Emilia e siamo i gestori del grande complesso monumentale dei chiostri di San Pietro in cui è allestita la mostra. Quindi siamo stati coinvolti da questa richiesta e sia noi che il comune abbiamo aderito immediatamente, positivamente, perché abbiamo capito fin da subito che non poteva che essere a Reggio Emilia a ospitare questo evento. Assolutamente, anche perché poi come dice la nota stampa della mostra, CCCP fondati a Berlino ma comunque provenivano da Reggio Emilia, dalla periferia dell'intero, tra l'altro dell'impero. Noi siamo a Bologna, sede della loro prima etichetta, l'Attack Punk, e comunque sede di alcune tra le loro prime gesta, certo. Diciamo, ecco una particolarità di questa mostra, che premetto non ho ancora visitato ma lo farò comunque appena possibile con grande piacere, è il fatto che non è solamente un'esposizione di memorabilia e un racconto della storia di un'entità artistica, di una band, ma è anche un atto artistico a sé, un'esposizione, cioè ci sono delle installazioni fatte proprio, sì, ad hoc, e si dice che sia l'ultimo gesto artistico, che quindi non è musicale, appunto, di CCCP. Sì, era chiaro fin da subito che sia a loro, ai CCCP, che sono i curatori, sia a noi che siamo gli organizzatori e i promotori, che non poteva essere una mostra da reduci, no? Quindi con memorabilia o semplicemente oggetti da mostrare di un tempo che fu, ma una mostra che doveva parlare di ciò che è ancora assolutamente vivo e bruciantemente vivo, diciamo così, di quello che è il loro percorso artistico. E ci sono effettivamente 25 sale in cui il visitatore potrà perdersi veramente all'interno degli spazi dei chiostri, in cui sono stati ricostruiti proprio i mondi che i CCCP hanno attraversato attraverso i loro oggetti, ma anche e soprattutto attraverso la ricostruzione di questi mondi, di questi ambienti, con oggetti che vengono da un determinato periodo storico, ma con contributi anche realizzati ad hoc. Proprio sono dei site specific da quattro artisti che hanno interpretato alcune delle loro tematiche attraverso delle installazioni, alcune immersive, alcune come dire più installative e espositive, che arricchiscono proprio il percorso di visita. Abbiamo coinvolto Arthur Duff, Roberto Pugliese, Stefano Rovede, Luca Prandini, coordinati poi da la persona che ha curato gli allestimenti, che è Stefania Vasquez, dello studio Vasquez, e con il light design di Pasquale Mari insieme a Gianni Bertoli. È stato veramente un lavoro di squadra proprio per rendere la mostra un vero e proprio spettacolo. Infatti, come dicono loro, questo è proprio l'ultimo spettacolo dei CCCP, che in realtà non si sono mai sciolti. Era, come dice Ferretti, era una cellula dormiente che si è ritrovata dopo tanti anni e si è risvegliata per allestire il loro ultimo spettacolo. E quindi forse il fatto che l'abbia definito una cellula dormiente potrebbe anche smentire tra un po' di anni il fatto che questo sia il loro ultimo spettacolo. Ma comunque volevo chiederle, questi quattro artisti che ha nominato, perché sono stati scelti? Avevano a che fare con l'universo CCCP, o per alcuni è stata un nuovo approccio, una nuova sfida? No, sono tutti artisti contemporanei, probabilmente qualcuno anche a suo tempo fan dei CCCP, ma sono stati scelti proprio per la loro capacità artistica di interpretare con alcuni materiali o la loro specifica proprio competenza, il loro linguaggio, quelle che sono appunto le tematiche. Faccio un esempio: Arthur Duff ha fatto un'installazione al Neon nell'ultima sala di mostra, Roberto Pugliese una grandiosa installazione sonora in una manica, un lungo corridoio da cui pendono centinaia di casse acustiche per esaltare un inedito che è stato ritrovato tra gli archivi dei CCCP proprio durante i lavori di ricerca per l'allestimento. Quindi ci sono anche dei contenuti assolutamente inediti, dei video inediti, degli audio inediti, così come Stefano Roveda, grande video di oltre 10 metri in cui vengono montate oltre 150 ore di girato, che ci parlano delle grandi rivolte degli anni 80 nel mondo, che sono uno dei motivi poi delle tematiche anche artistiche delle canzoni. Così come Luca Prandini ha costruito una scultura brutalista, in stile brutalista sovietico, che celebra le caratteristiche specifiche dei quattro personaggi trasfigurandoli proprio in una monumentalità veramente eccezionale. Quindi sono stati scelti artisti diversi proprio per sollecitare alcune tematiche del gruppo. E poi immagino ovviamente ci saranno tutti i memorabilia del gruppo, da costumi di scena, tantissime cose. Certo, ecco, però non ha un taglio nostalgico. Certo, ecco, assolutamente. Questo è quello che abbiamo tenuto, insomma, speriamo di essere riusciti anche a assolutamente trasmetti. Un altro paio di domande, anzi la ringrazio del suo tempo, della disponibilità. A parte i due ambitissimi Gran Galà panchettoni che si svolgeranno sabato e domenica, ci sono altri eventi collaterali che raccontano tanto altro sui CCCP? Li abbiamo chiamati danni collaterali. Danni collaterali. Esatto, ed è un ciclo di 6 incontri, ognuno dei quali approfondisce alcune delle tematiche poste dalla band, che sono tematiche non solo di ordine artistico e musicale, ma anche storico, sociale, culturale, tra l'altro relativi a anni che non sono ancora gli anni 80, in particolare, che non sono ancora stati storicizzati. Quindi avremo appunto degli storici, avremo Franco Cardini l'8 di novembre, avremo degli scrittori e critici letterari, avremo Marco Belpoliti il 9 di novembre, così ancora Luigi Ghirri, l'archivio Ghirri, Adele Ghirri in particolare, che parlerà del lavoro di Luigi, tra l'altro uno degli ultimi lavori di Luigi Ghirri prima della scomparsa, relativa all'album del 1990 dei CCCP, di cui sono esposte oltre 20 foto inedite, tra l'altro un lavoro bellissimo anche per gli appassionati di fotografia, così come degli approfondimenti più specifici su tematiche quali la preghiera, il rapporto con l'Islam e ancora la critica musicale, e avremo Riccardo Bertoncelli nell'ultimo appuntamento del 25 di gennaio. Ovviamente è tutto trovabile sul vostro sito, sì, della Fondazione Palazzo Magnani. Volevo fare l'ultima domanda un po' insidiosa, e cioè ha già parlato di un lascito anche attuale, quindi una formazione che ha fatto un suo percorso partendo dal punk indipendente, arrivando su Major, avendo un enorme successo che poi è rievocato da generazioni e generazioni. Ci sono strofe delle loro loro canzoni che sono oramai uso quotidiano di chiacchiera, diciamo così, di conversazione. E c'era questa sorta di monolitismo apparente basato sul filo sovietismo, anche se poi in realtà è fedele alla linea anche quando la linea non c'è. Volevo chiederle, secondo lei, qual è appunto il lascito più importante di questa band, con questi testi tra l'altro molto liquidi, molto aperti a varie interpretazioni? Ecco, diciamo che indipendentemente poi dai percorsi che ciascuno ha fatto individualmente, no? Anche successivamente allo scioglimento, successivamente poi alla caduta del muro di Berlino e altre esperienze artistiche, ecco, diciamo che secondo me in particolare, insomma, questa mostra parla, è ancora in grado veramente di parlare ai ragazzi di oggi, o le persone di oggi, insomma gli uomini di oggi, proprio perché porta un punto di vista, cioè ci sollecita a tenere sempre presente punti di vista non mainstream, quindi avere sempre, come dire, la riserva di mettersi da un punto di vista, come dire, non scontato, quindi lo spirito critico, lo spirito, come dire, anche contrario a quelle che sono le mode convenzionali, ai grandi come dire, no, anche dettati del mercato, del convenzionalismo. E quindi penso che ci siano, soprattutto leggendo ancora i loro testi oggi come vere e proprie poesie, tanto da riflettere. Direttore, io la ringrazio molto, quindi appuntamento per tutti gli interessati alla mostra che ha aperto 12 ottobre ai chiostri di San Pietro a Reggio Emilia e chiuderà, mi sembra, l'11 febbraio, giusto? Quindi c'è parecchio tempo. Grazie e complimenti. Io grazie a voi. Io vado avanti con i miei vinili, le CCCP d'epoca, e parlavamo prima di frasi di uso, e vado proprio avanti con "Io sto bene". Grazie ancora, la saluto. Arrivederci, grazie a voi, a presto.